sai che la pioggia fina fina che parca nucchiova e ti trovo in coppa una montagna e guardo cielo come da che li film muta non ci stanno ferite solo morte e ti trovo in coppa una montagna capo un esercito morte fame bavusa la brusa che pezzo un fosa e te votti in da sta vallata sotto a questa pioggia fina fina scedata va bavusa e pupatella e babilonia rapite capo e coscio l'uocchi e embriel e sarrano maciella e caprattella a notte sangallister e creatura bastardiella scedata va guaglione e pecciorella e mala sorte che con tanta devozione a culo un fun chiove sangue e sarrana mattanza e caprattella a notte sangallister e creatura bastardiella miserere nobis compagnelle senza niente miserere carne e orieste tutta mercanzia pietà posticiniella pasta malattia che sta facendo vierme sfrannasea misere sto tempo che c'è un feta fantasia e c'ha ciro suone non c'è farò mi pietà e così sia agnus de refocatiel repisce mana cuppetiel agnus noi pes fregge te schiatta ma carestia e scrono tiemba no mala tiemba tu trovo un faccia riente ritte non te lassa mai stagione vierna rosa che iorna sta sempre appriessa appriessa secca e non sa buffa mai e scrollo tiempo non male tiempo l'aria trasa un corpo fracica in gangranea capo l'anima e votto viente non male viente una tempesta sabbia ardente e non si sente più una voce ma solo sciata che sussurrando scioscia contraviente una praselle sale o sputo in cielo e torna a mocca roce come fiela miserere miserere nobis miserere agnus de pietà miserere miserere nobis miserere Agnus Dei pietà. Scusate. Scusate, ma se sembra è parte foggia. No, perché manit piglia l'autostrada, isce a candela, poi gira a sinistra, no, prima no, a seconda, va sempre diretto, ti trovo un semaforo e facce, gira subito a destra, roppa che lì 7-8 chilometri si è arrivata a Foggia. E io così oggi ho fatto, stamattina ho pigliato la macchina, la macchina che poi sta in condizione come lì che non vuol dire, sta fa gomma che sono proprio lisce, la distribuzione, poi bella e buona si ferma secondo me è la pompa certi sera io ti sento a voce a toi mi arriva in faccia a file viente certi sera io ti sento ancora e a così sarà per sempre certi bote ma una vaca Rusuliana, Pellegrina e mia zeppretta, certi botte, io te veca, occhi dall'occhio, io te veca e poi mascete, certi sera, m'embriaca, e ghiaste more minute, giorna che ti ho incontrato, certi sera, io m'embriaca, t'aspetta un suono per straziare ta bocca e vasa, certi botte, io mi perdo. Vemma una cara come una uccelluzza morta certi bot io moro allerta perché tu no tu non ti farai chiudere gelsomina profumata, tu acqua rosa mi trasfusa, vena a vena, chiano chiana, te sfiziata a tagli e cusa, cama nella tua ferma e giudiziosa, la cua che fila ma sportusa, uva spina, tu came lassata, con una bocca amare sangue infusa. Certi sera io ti sento, la vocella tua mi arriva ritto in faccia, a file viente, certi sera io ti sento. Ti sento ancora e così sarà per sempre. Certi pote, io me ne vacca, ruscioliana, pellegrina, mezza e prete. Certi pote, io te vecchio, occhi in dall'occhio, te vecchio e po' masceta. Quindi voi mi confermate che qua non stiamo proprio le parti Foggi, no? Perché io ho già trovato uno qua fuori, un mano mezzo scema, ha detto, scusate, ma mi sapete spiegare la strada per Foggi, che stiamo guarda e fa, ma voi ho tenuto un navigatore. No, perché da via fa un viaggio che sta portato senza navigatore. No, perché pure se lo tenivo navigatore non nascevo proprio scritto Foggia. Si è fatta una risata e se ne chiude. Mo, ieri che sì, se noi mostevamo in un film David Lynch, io posso pure capire, piglia l'autostrada, sciaccandela, gira a sinistra, no, prima, no, seconda, eccetera, eccetera, invece ti trovano a Foggia, ti trovo, che saccio, da un deserto, che morte, è fantasma. Non stavamo a Foggia, ma stavamo a California, via, dicevo, voglio... voglio a Hollywood, poi gira a San Francisco, va sempre diretto, poi piglia prima a sinistra. Maronna, io ci ho sbagliato, ci ho girato a destra, a candela. Maronna, però scusate, Foggia, sembra che sti parte sa sta, o no? Mica stiamo in un deserto, con sti bestie fantasma e prete cavella, sabbia invocata, carbone che tagliola per mariola, che scendono per montagne, mezza sti friariele, terra arsa che crescono in questo deserto. Poi ci vuole uno spicchieraglie, una cucchiarata d'aroglie, sti friariele campusante, con belli fronna a croce, rinda sti mano morta, con mano mazzerosa. Vita mia, vita bavosa, furiere gipette, fattore malvarosa, vita bavosa, catarra tonnellata, melma schifosa, pisciazza marmallata. Vita mia, saglie pescala, e saglie curre, scinne, curre cara. Vita mia, vita avvelenata, schiattata rindomazza, fanatica, scannata. Spurpate poi tati in da monnezza. regine, te ne veniva man a file gas, a file riente, in faccia a sti riente, per tutta notte e giorno socchio luccicante. Regina, regine, noi non mangiamo carasche sputazze, fiore pisciazze, uomo capiezze, voglio sfaccimmo un coppo pana morza morza. All'acqua lurda, acqua salata, a file nas, a file logna sangue, costi fronna croce. Regina, regine, e non mangiamo capare carnazza, e mo, come nuturza, me spurate poi tati in damunezza. Pigliare l'autostrada per chi diretta a Lourdes, ma fogge. Ne moimo però, e già sono disperato, e già stando a questa situazione in merda, che va a pigliare a strada, esci a candele e maggio perse, eppur si tenevo una navigatura, ma perdevo stesso, però mo, grazie a Dio, io questo qua, mezzo a voi non sto da chi lì deserte, che morte, a non c'è sta nessuno, e mosche, e monacelle, e tarandelle, mo in da sta situazione in merda, però mo, riuscimmo a verità, che c'è secca Lourdes, che ste proprie cattiveria. Stamattina maggio alzate e cing, e ieri sera mi ero visa sveglia 4:30 e già mi ero preparato il caffè, non che me l'ero già fatta, perché il mio caffè fatto giorno prima ma fa schifo, me l'era preparato così stamattina, pigiava solo fuoco sotto il caffè, no, perché ci steve nuzie mie, anzi per essere precisi era nuzie mia madre da parte rubata, che faceva questi bottiglioni di caffè, lo faceva una volta a settimana. E capitava a casa sua e mi diceva, voglio un poco lì il caffè, la roba manca che li riesce secondo, già stevo questa tazzola il caffè, la verità facevo veramente schifo, proprio uomo che io stamattina che 5 ci pulesse un po' di caffè, che come aggiabbiata ci pigliata la macchina, che in condizione che è meglio che non vuol dire che sta fa distribuzione, gomma fanno schifo veramente lisce, e poi bella e buona si ferma, secondo me è a pompa. Amore amara, amara amora, passione che schia a tetto un sillo e non respira, anima prena e carbone fuoco, che sgrava il cavolo e canzone e sentimento, amore amara, larva zeccosa, me cucinata pur patiella anima e cora, broro cucente, per dinte e vena, tua su cassurse e te ne futtere e canzone. Amore mio, va a te, una iacca non mi muovo, tu va e mi metto a dormire. Friene magnana, è passata Natanna, passerà. Maronna la neve, tu si marma ghiacciata perché mi graziate e non mi fai morire. Sta cagna hanno tempo, porta tempesta, e ho freddo in cuol, già mo sento rinda all'ossa. Porta bufero fra, e per tutta notte, chi sto occhi miei, chi ho una lacrima lucente. Oh amore amara, oh amara amore, mo sfunnerina, senza nuffoli le ruoglie, compagnero mia. Stai canotte giorna, e o sai che se non te ne vai, ma ne va chi? Oh amore mio, va a tenere io, che faccio viera, ma tu va, io mi resta a dormire. Friene magnana, è passata Natanna, e Natanna non passerà. Maronna la neve, ne fatta cazzata, perché mi è graziata per non farmi morire. Maronna buciarda, tu m'hai abbandonata, con te m'hai pigliata per farmi morire. A me non mi piace amaro caffè, a me mi piace dolce. Perché poi stamattina mi sono fermato a fare benzina, o volevo caffè, però non solo la macchina mia, pure la macchina roccafè era rotta, non chiedeva pressione, ma il barista allora zitto, me l'ha già abbiato, io chiano chiana, però non caffè ci volesse proprio, mo, che sta sto calore pazzo, che non abbiamo capito, caro stambre, parte foggi in un deserto, questi suoni assurdi che si sentono a priesse, questi stacchi e il rumore che non si capisce niente, che a mezzo che stanno a mezzo a sti bagatelle, e allora io certi suona lontano, e che mi parano che vengono proprio, che li suona alla Bjork, non so se voi per radio mi sentite la stessa cosa, poi sento sti cose alla Bjork, è come se si sentesse pure una specie di voce Sal da Vinci che viene lontana, No, perché poi a Sal da Vinci già potevo pure chiedere, cioè, voglio Sal, vuoi venire a fare una cosa con me? Io stiamo a Radio Onda Rossa, una cosa in diretta, una cosa sfaccimma, però chi lo può Sal era impegnato, ma ha detto, no cani, mo non tengo tempo a disposizione, però non ti preoccupare, la prossima volta lo facciamo. E allora facciamo così, mo l'uomo sti frasca mezzo, perché mo, ci capite che Bjork non è proprio genere vostro, non vi piace, E Sal da Vinci, mi dispiace, sarà per la prossima occasione. Noi mo invece ci dedichiamo a una piccola giaculatoria, una canzone che cavi viene proprio a rindocora. E una, e due, e una ruia, tre, quattro, e una, e due. E come amare sta acqua santa. Allora, imparate questa cosa, questa è un'acqua santa di giaculatoria che riprenderemo più tardi. Preparatevi a dire presto a me, pure se non io non vi sento, però ma voi mi sentite, fa e una, due, tre, quattro. Nel frattempo noi moiamo a fare un altro giro mezzo a sti campagna, roce sta stu sola che spacca e prete, e non si capisce proprio niente. O solo andò ste morte, senza capo e senza mano, mieze cosce falegname, fanno il cascio per Natale. Tu hai voluto sangue mio, però dopo questa vecchiaia, la vecchiaia, voglio sangue e voscia porto l'occhio, guardo un colpo. Voglio sangue e voscia porto l'occhio, guardo un gras. vita mara mare senza sale. I tengo sotto l'engo una spilla d'ore, una fune inganna di se conosci il tuo cuore. Suona, suona, suona, suona campana e fa che chi sto suona arriva da così lontana. Suona, suona, batte cuore che non siede, rindasti in mano morto non mi trovo più niente. Suona, suona, suona, suona campana e fa che chi sto suona arriva da così lontana. Suona, suona, suona, batte cuore che non siede, rindasti in mano fredda non mi trovo più niente. Si frasca miezza, mette, no? Perché mo parlamma, perché miezza voi sicuramente c'è sta qualcuno che è intelligente, no? Allora ma se mi potesse parlare a me, ma una domanda mi facesse, sa, uno che gli intelligenti che magari stanno, hanno avuto qualche malattia perché sono stati in dolietta, stanno visto per televisione tutti quelli programmi, storie, geografie, che saccia, Super Quark, Profondo Blu, Alicia Colò. Ma Licia Colò fosse parente a Zeno Colò, usciatore, magari qualcuno di voi lo ricorda, passato tanto tempo, ma caro, poi nessuno si ricorda Zeno Colò, nessuno mi sa per dire la strada perché a Foggia e che stiamo proprio in un bordello merda, e mostro grande intelligentone in mezzo a voi che magari non potesse fare domanda a me e mi dice scusa, ma tu a Foggia che cazzo ci vai a fare? E chi sta intelligente che può se crede essere più intelligente tutto quanto, perché isso sottintese ma può far capire che isso a Foggia non ci è mai, e devo dire la verità che pure tenesse una qualche ragione, però io mori che seguitemi fino alla fine sto viaggio, perché io poi vi spiego com'è che gira attorno a sto fatto Foggia. Allora voi avete avuto il tempo per preparare allora giaculatori che agite 1, 2, 3, 4, allora mo venite appresso a me e faccio piano piano 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1 e 2. Già essendo voce, pure se mo a voi non vi sento direttamente, però vabbè, poi io normalmente sento voce, pure quando dormo sento voce, qualcuno mi dice voglio arruare, però stai e una e due e una roia tre quattro una e due e come amare sta qua sante una e due. boia, sta bottigliella succhi e frutta, schiatta a sotta, a sta creatura le rato sfratte, una e due, e una roia, tre e quattro, e cinque e sei, e cinque, sei, sette, otto, e tu si morta, a bocca tua, ma sonna notte, a fronne cerasa, arravogliata quattro giri in davrachetta. Sì, sì, pure senza sacramento, io e te amma fatto sentimento, mo perché indifferentemente come fosse niente. Sì, sì, pure senza sacramento, io e te amma fatto patramento, mo perché indifferentemente come fosse niente. È una roia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu me la sate, ma per tutta notte viene un suono, facciamo una chill, corre la zarella, corre, corre, corre la zarella mia, amore, amore, amore, senza cerimonie, con marel, con fietto fumocato e caramel, io succhi a cannella, fai una stricchiatura bella, è un, è due, con meno fuoco, mi ha picciato cuore, brucia raffi in guarda campo, e brucia terra, sotto a sti fiamme, sentendo a Maria Bata, che per te non so più niente, parola santa, il tato viene, viene, c'è da mare, viene, porto sto bolena, oggi rimane, non cagna niente, con una funatesi muore indifferentemente, e fammo quella che vuoi, indifferentemente, tanto saccio che so, a te non so più niente, e dammo sto bolena, non aspettare rimane, che indifferentemente, se tu m'accira, io non ti ric niente. Secondo voi, no? Se uno non tiene un lavoro, o una moglie, o un marito, un'innamorata, innamorata, non tenesse nessun motivo per chi affogge. Che sto fatto io? Io non tengo nessun motivo per chi affogge. Per pigliare l'autostrada, esci a candela, gira subito a sinistra e no a destra come ci fatia, ma no, non tengo nessuno di questi motivi. Thank you. Saranno all'anno, ma quando sarà il tempo, sempre qua mi può trovare. Ma chi ti fa fare, sì, ma chi mi fa fare? Che la gente parla sempre, ma non sanno niente, non sanno che io e te, io e te. Dormiente, io non mi firi, sto tranquillo, perché tu a ca e passa. Ma che tu fa fa, sì, ma chi non fa fa, che la gente parla sempre, ma non sanno niente, non sanno vai e te, io e te. Firi, sto tranquillo, perché tu a cai passare. Ma chi ti fa fa, se quella gente parla, ma chi mi fa fa, o sapimmo io perché. O sapimmo io perché. Veramente, un amico mio, San Giorgio a Cremana, come fa un professore a Portici, ma dice, voglio tu te sta accorto quando parla, perché come parla rice stronzata. E io mo ci penso a sto fatto, perché mi dicevo, voglio tu te sta accorto, perché c'è stanno parola e parola, pure libro e canzone e romanze sono fatte parola, però non so stronzata, ci stanno parole e parole, cose serie e stronzate, ci stanno come teatro, no? C'è sto teatro comiche o teatro tragica, nemmo proviamo proprio a farla tragica, sai, st'amore. Già, vena vierna, e chiano chiana, ma l'amore tragicamente questo lamento cantatore oi patate ma amore questo file voce pacatamente come se fosse Cristo in croce ma dagli adora ro tragica amore campiona cu tutti gli onori, son comast ro tragica mora all'Olimpiade ro tu loro oi battale scioglie trezzelle a strigne mana sciogliete vest oi Maddalena scioglio cana. Sì già, vena vierna, est turmienta, cantatora, tragicamente, se stute chiano, chiana mora, medaglia d'ora, ro tragica mora, campiono cu tutti gli onori, son co best, ro tragica mora. All'Olimpiade Rodoloroi, oi, Maddale, sciogli sti chiove a rape in mano, sciogli e trazzella, oi Maddalena, sciogli o cana. Però a chi l'ho fatto l'amico mio io ci penso perché chi la teneva ragione a già mettere lo stop perché la ma mettere non facimme punta ferma a un certo punto hai capito Alessà tu mi veni a presto a me mo perché chi l'amico mio San Giorgio a Cremana che facevo professore a Portici teneva ragione e mi diceva voglio stare d'accordo perché qui c'è stanno strunzate e allora immagino mi sa cercare parola che l'importante no? È parola che vanno a ricere qualche cosa per via dirette e per via traversa mi aiuta a leggere libri in de biblioteca e giornale foglie di el mi aiuta pure mezza via in de cinema, in de ristoranti, in de pizzerie mezza vic o in de bar cabas la verità se ne origine strunzate ma onestamente teneva ragione chi l'amico mio allora mangi mi si pure un coppa internet e è mangi perso perché chi lo ho problemi miei sa e ho problemi miei che io mi perde sempre trasuti in docazzona pezza in fosa appassionata piezze carogna pasta cresciuta sfugliatella ricettata ferrarella acqua sfiatata uocchi e pasta frolla forbicella mette fanno amore a baionette vatruanna mo chi estate se signoro chiama cancra coro fottuto fronne magge panzanelle ricottella mar che buovo tinto parapiglie e frolla frolla frolla gatta morta frolla frolla frolla frolla bastarda carna molla frolla frolla carne mia malata, munachella sola, figlia mia che ti consola, figlia addolorata, munachella persa, palumella che non vola. Carogna ingarognata, tu non mi puoi lasciare. Maruzza Maruzzella se ne scese coscia coscia, fatto gire Garibaldi, senza cavalla, a uccella muta, pigliate sto cor, o coro per omus, bellecchia mia scurnosa, frolla, frolla, frolla gatta morta, frolla, frolla, fro. Frolla, frolla, fragaglie carna molla, frolla, frolla, fro. Carna mia malata, tenerella sola, figlia mia chi ti consola? Figlia addolorata, tenerella persa, palumella che non vola. Carogna ingarognata, tu non mi puoi lasciare. Munachella sola, figlia mia che ti consola, figlia addolorata, tenerella persa, palumella che non vola. Carogna ingarognata, tu non mi puoi lasciare. Ascoltatore, se capite che a me mi piace la musica psichedelica, e Pink Floyd, che sono modella mia, i Pink Floyd, e poi mi piace proprio tutte quelle periodi, capite? Ricordate, no? L'LSD fa male o non fa male? Te frie cellule cerebrale, o anzi no, fa buona, quella è medicinale. E poi tutte quelle cose là, mescalina, psilocina, peyote, belladonna, acido, ecco, C16H17N30, che è questa formula dell'acido. E io, mo, in coppa internet, mentre mi cercavo sti cose psichedeliche, eccetera, formula dell'acido, da verità mi è venuto proprio in acidità e stomaco, ma in acidità pesante. Però non so ma da che dipende, può essere pure che è stata la pizza che m'aggio fatta ieri sera, a mozzarella, a pomarolella, non erano proprio buona, ma l'aggio fatta a Tonino Caramiello, quello che sento bufere Sant'Antuono, non sapete a Tonino Caramiello, quando sia da Napoli, allora a zona Furia, o bufere Sant'Antuono, tra la città Rinde, io sanno tutto quanto a Tonino, adesso la prossima volta ti amo, là, perché Tonino fa proprio una grande da pizza, capito, no? Quello che rimane del tuo tragico furore è una lingua da sgrassare, è il tanfo del tuo cuore. Questa sera non cercarmi, da domani io cancellerò il tuo nome. Non mi importa che farai se scoppierai qui fuori, e non dimenticare mai che saremo sempre soli, tu al guinzaglio del tuo cane ed io steso in un tuo libro come un fiore. Tienami stretto come se fosse la carne tua, e che tenga avrei si potei m'amora. Tienimi rinte braccia tuia, perché stanotte ancora, e fammi consumare Se scoppierai qui fuori, non dimenticare mai che saremo sempre soli, tu al guinzaglio del tuo cane ed io stesso in un tuo libro come un fiore. Tienemi stretto come se fosse la carne tua, che tenga avrei si per te. Amore, tienimi forte a strigni e vena, perché stanotte ancora e fammi consumare fino a che può, amore. A me sta fu un'inganna, e sanne zucchero stissenga clandestina, è proprio chium goppo cor stu destina, lontana amora, ma qual amore è uno strazie senza fine, lontana amora, povera amora. Quando ci siamo incontrati e manca una parola, solo un sospiro, nusciato solo per due anime dannate, anime persi in da sticcarne in gangranite, venite viermi che sto cor mio trasite, lontana amore, ma qua lontana stantanati in de ferite. Lontana amore, povera amore. Ma che ne sanno loro che non sanno amore, li scende stine in acqua che non volle mai, noi ci imbriacavamo solo a sentirla d'ora, e l'aria che con un respiro si infuocava, e ci sazziamo me gocce sale, rosso d'oro, lontano amore. Lontano amore, lontano amore, lontano amore, ma quale amore? Strazie senza fine, lontana mora, lontana mora, povera mora. Passano sti giorni, ma non passa sta condanna, sta condanna, sta lontana, pure si stanno vicini, tira a te, tu tira a me, sta corte fu un ganna, e stanno zucchero, sti stenga clandestini, e proprio chi manco poco ora sto destino, pare cent'anni quando ci siamo incontrati, e manca una parola, solo non respira, nusciato solo per 2 anni, ma dannate, andiamo persi in da sti carne dilaniate, venite virma, che sto cuore mi trasite, facite ampresso, io mamma venite, ma che ne sape tutta quella gente che non sanno amore, questo uomo che intestino senza più calore, noi ci imbriacavamo, intronavamo, solo a sentire l'addore e l'aria che con un respiro si infuocava, e ci veniva un sudore che sapeva acqua mara, sì, che sapeva acqua mara. E così mi aggiunto coppa internet e è asciuto da scritto dottor Francesco Piselli, specialista in acidità e stomaco, che riceve il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 19, piazza Risorgimento, Isernia, e il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 in viale 24 maggio, Foggia. Dottor Francesco Piselli, specialista in malattie e acidità e stomaco. Piselli, no Pisiella, non Pisiella, che voi mi pensate che fa un Pisiella, non è un andrologo, non è che Massimo Fagiolo, che fa qualcosa che fa sulla, già azzecca, mia mamma per dire si chiama giudice, non già azzecca niente per giustizia, almeno fino a mo. Non so, chi le si chiama Berlusconi, mi chiama lo Querch, stu derelitto che sta vicino a me, che stamattina si chiama Alessandro d'Alessandro, che poco cognome fosse dalle quale nome. E vabbè, questa è la situazione. È una. Alessandro. Sangue senca in faccia a file argente, e a una sfusolo ogni mei. Ho marcato re formella sotto banca re santilla, e a una lacrime pompei. E mo, dove canzuona? Maronna dolorata, recorrei. E mo mi gira attorno, ore e minute e tutti i giorni miei. Dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava dava e a piezza a piezza e crosta coppo cora. Animelle coscio viente te suca da tradimento, a goccia l'acqua rinto mare. E mo, dove canzuon, oi vergina maronne tanta guai. Ecca, e faccia in terra, ma che la grazia che tu non farrai. Thank you. pasa gli utero calvaria, crocio la niente fumiente, si appressa, appressa a tutte passe miei. La stazione Garibalda votriessa a tutte passe miei. Stazione Garibalda, vote lurdi e due battiente, scurnusa pellegrine Mater Dei. E mo ti sento un suono, fa quando un mese maggio tornerai. Hai già, ti tengo attorno, per tutte le orne non me lasso mai. Le canzoni, poi vergina maronne tanta guai, ecca, e faccia in terra, ma che la grazia che tu non farai. E mo ti sento un suono, ma quando un mese maggio tornerai, hai già, ti tengo attorno, a tutti i giorni non me lasso mai.